Can you see it, my brother? Can you see the new? Sister, can you see the new? Can you see it now, brother? Can you see the new? Can you see it now, sister? Can you see the new? Can you see it now, brothers? Can you see the new? See the new? Ed eccoli qua i Magazine, lunedì è la prima puntata del 2024, iniziamo la nostra rassegna stampa ispirata dagli inserti culturali usciti negli ultimi due weekend, sia quello di 30-31 dicembre 2023 che 7 e 6 gennaio 2024, per cui ho selezionato da doppia uscita per quanto riguarda Magazine che oltre alla musica mi hanno tenuto compagnia durante queste estese vacanze natalizie di anno nuovo. Non dimentico però il pubblico di Radio Città Fujiko e del Breakfast Club, anche per oggi un lavoro editoriale per voi da Adelphi di Simone Veil, di cui vi parlerò per certo il quiz, che è molto facile, ma molto facile, arriverà al 333-180-9494 per arricchire la vostra biblioteca. Ci sarà per questo inizio di anno una possibilità con un lavoro teatrale di Simone Veil riportato su una edizione Adelphi. A tra poco quindi con il quiz, ma partiamo immediatamente con un'ora di luce in più, un momento di luce in più, non esageriamo, anche se il tempo è un altro motivo di ricerca e come vi ho detto adesso, passata la Befana, un pochettino, anche se in maniera impercettibile, dovrebbe arrivare un pochettino di luce. Ma come abbiamo deciso di calcolare questo tempo? Anche perché guardando il cielo si accende questa misteriosa ma quanto mai concreta macchina del tempo. Tutte e tutti abbiamo sempre sognato l'idea di avere la macchina del tempo, In questo caso invece è una realtà concreta, grazie a Patrizia Caraveo, che è una astronoma oltre che una ricercatrice, che continua con questo saggio, con una sorta di macchina del tempo stellare, a darci una proposta diversa per guardare le stelle, un'emozione diversa nel guardare le stelle. Siamo in prima pagina sul prestigioso inserto domenica dal Sole 24 Ore, uscito l'ultimo dell'anno 2023, e racconta di questa ricercatrice che da giovanissima ma sognava di diventare archeologa. Vedete che la macchina del tempo poi c'entra nella ricerca di reperti, avida lettrice, egittologia, la storia di Babilonia, tutti i momenti e le grandi civiltà del passato che diventano costantemente motivo di curiosità e anche di studio per Patrizia Caraveo, che alla fine però sceglie un diverso percorso universitario, si dedica alla fisica e poi focalizza la sua ricerca sull'astrofisica, e pensava di aver completamente cambiato, dice, da astrologia alla fisica poi astrofisica, insomma ho cambiato completamente. Si è resa conto che non ha poi cambiato di tanto, anzi il collegamento grazie a questa macchina del tempo c'è, in quanto se noi guardiamo le stelle, l'immagine che arriva è un'immagine di anni, ma addirittura secoli precedenti all'immagine da noi pervenuta. Si chiamano in effetti anni luce e ci sono delle distanze veramente inimmaginabili. Tutto ciò in un'esposizione anche a Roma per l'astronomia, che è una macchina del tempo, come recita il lavoro dell'autrice che vi ho appena citato, ma anche una mostra ideata dall'Istituto Nazionale di Astrofisica in collaborazione con Pleiade di SRL negli spazi del Palazzo delle Esposizioni di Roma. Ovviamente la mostra inizia con una replica del cannocchiale di Galileo Galilei. Per realizzare il suo strumento, Galilei migliorò la combinazione di lenti inventata in occasione da un ricercatore, da un occhialaio esattamente, magari servirebbe anche a me, un occhialaio olandese, e costruì il suo cannone con occhiale, contando anche sulla nuova parola che verrà coniata, cioè cannocchiale. Galileo non sapeva di aver messo a punto una macchina del tempo, e all'epoca si pensava che le stelle fossero inchiodate nel primo mobile e nessuno si chiedeva a che distanza fossero, tanto più che sulla natura della luce le idee erano ancora confuse. Tuttavia, grazie a questo strumento, ha dimostrato come il cielo fosse pieno di sorprese che avrebbero scardinato il sapere della sua epoca e aperto la via alla scienza moderna. Ovviamente il percorso è dal cannone a occhiale, il cannocchiale di Galileo, ai più potenti telescopi moderni, per arrivare a dei sistemi di ricerca nella visione dello spazio e delle galassie sempre più realistico. Gli spazi, a proposito, la stella più vicina è Proxima Centauri, che è a 4,3 anni luce, mentre Sirio è l'astro più brillante, è a 8,6 anni luce. Domina il cielo invernale in compagnia di Betelgeuse, una super gigante rossa della costellazione di Orione, che però è decisamente più lontana. La sua luce rossa è partita 530 anni fa, cioè noi vediamo un'immagine di 530 anni fa. Pensate un po' se non è una macchina del tempo. Restando nella costellazione di Orione, troviamo la ovviamente famosa nebulosa che ha prodotto la luce che abbiamo visto 1500 anni fa, quando cadeva l'impero romano di Occidente. Noi vediamo quella luce lì, se non è una macchina del tempo questa. E noi ci occupiamo di una semplice ora legale, ma anche quello ha avuto motivo di ricerca, e non immaginate, è stato un bolognese a dire, a gettare le basi. Ma perché non troviamo una misurazione del tempo che sia universale, che possa mettere d'accordo un po' tutti? Bene, tornando sulla Terra, dopo questo viaggio nello spazio e nel tempo, cioè noi vediamo una luce delle stelle che risale a epoche antecedenti a noi inimmaginabili. Guardi il cielo e devi accendere la macchina del tempo e l'apertura non solo dei magazine, ma anche della Domenica del Sole 24 ore nell'ultimo numero uscito nel 2023. Un po' di musica con Javan, un po' di bossa nova ci vuole anche per tornare sulla Terra e per un buon ascolto sulla nostra rassegna stampa culturale. Vi ho parlato di un bolognese e non l'avrei mai pensato, ma i magazine servono anche a questo, a farci conoscere talenti di casa nostra che a volte sottovalutiamo, e invece è giusto conoscerli. A tra poco. Incrível saudade, se é por vontade de Deus, vale, vale. Se o Senhor me for louvado, eu vou voltar pro meu cerrado. Por ali ficou quem temperou o meu amor, e semeou em mim essa incrível saudade. Se é por vontade de Deus, vale, vale. Se pedir a Deus pelo meu prazer, não por pecado, vou rezar pra quando eu voltar a rever todas as brincadeiras do passado. Corteja meu cerrado e em dia feriado, viva o cordão azul e encarnado. Eu sei, serei feliz de novo, meu povo, deixa eu chorar. Deixa eu chorar com você e serei feliz, feliz de novo, meu povo, deixa eu chorar. Se o Senhor me for louvado, eu vou voltar pro meu cerrado. Por ali ficou quem temperou o meu amor, e semeou em mim essa incrível saudade. Se é por vontade de Deus, vale, vale. Se o Senhor me for louvado, eu vou voltar pro meu cerrado. Por ali ficou quem e tempero, o meu amor, esse meu em mim, essa incrível saudade. Se é por vontade de Deus, vale, vale. Se pedir a Deus pelo meu prazer, não por pecado, vou rezar pra quando eu voltar a rever todas as brincadeiras do passado. Corteja meu cerrado em dia feriado, viva o cordão azul e encarnado. Eu sei, serei feliz de novo, meu povo, deixa eu chorar. Giovanna, bossa nova che tiene il tempo, visto che di tempo stiamo parlando, e anche di luce, anni luce, anni ricerca del tempo, ma mettere d'accordo tutti, beh, la terra come ben sapete e il sole costantemente in dialogo sono motivo anche di misurazione del tempo, ma ognuno ha la sua visione. E pensate, nel passato, per creare un'ora che sia un accordo per tutte e tutti, non è immediato, ci cittadini del ventunesimo secolo, non ci badiamo più, i fusi orari ritmano i viaggi intercontinentali, mentre in patria il tempo ufficiale non conosce variazioni. Ok, c'è quella dell'ora legale, infatti è per quello che ho voluto così esorcizzare il ritardo di luce alla mattina. Con forza e coraggio, dalla Befana in avanti si sente un allungarsi del dì, e del dì al buongiorno a Luigi, che scrive: finalmente bentornati, buon lavoro a tutta la radio. Grazie Luigi, buona giornata, buon lunedì e buon 2024 a te. Mi raccomando, attenzione per il quiz, per avere Venezia salva, beh, acquistato per voi nella splendida libreria Acqua Alta, di cui vi parlerò. Comunque, sapete chi ha iniziato a dare uno spunto per mettere d'accordo un po' tutti nella misurazione del tempo? Quirico Filopanti. Quindi non è solo il nome di un viale di circolazione, di circonvallazione, scusate, qua a Bologna. Ma chi era Quirico Filopanti? Viale Filopanti, che è un intellettuale un po' originale, un po' estemporaneo, oltre che un patriota. Viene esiliato in Inghilterra, viene allontanato proprio perché è personaggio fastidioso, ma anche grande studioso e intellettuale. Lui dice: ma scusate, siamo arrivati a dividere in 24, allora facciamo anche 24 meridiani in cui come spicchi dividono il giro che insomma la Terra può fare, e dare per ognuno un'ora diversa. Si trovava in Inghilterra e guarda caso si partirà da Greenwich. Insomma, questa è storia, potere standard del tempo. Durante il suo esilio nel 1858, il bizzarro intellettuale patriota bolognese Filopanti pubblicò un libro, un testo, un saggio in cui proponeva l'organizzazione del tempo universale terrestre in base a 24 meridiani, che poi chiaramente fu penalizzato, fu raffinato se vogliamo nella sua modalità di ricerca, ma l'idea è nata da un bolognese. Si vede che abbiamo una particolarità noi col tempo, anche il papa bolognese Gregorio, che abbiamo in Piazza Maggiore, cancellò dei giorni dal calendario per riportare esattamente in asse la situazione astrale. Poi Quirico Filopanti nel 1858 riporta tutto ciò ha un aspetto, se vogliamo, condiviso in tutto il globo terracqueo. E pensate che prima la difficoltà, alcune metodologie proposte anche abbastanza surreali, siccome i treni era un motivo poi di comunicazione, dicono: ok, allora calcoliamo le ore a seconda dell'arrivo dei treni. È stata fatta anche questa proposta, no? I treni sono il motivo più moderno di comunicazione, la rivoluzione industriale e quant'altro. Perfetto, noi allineiamo tutta la misurazione a seconda dall'arrivo del treno. Quindi è arrivato il Bologna-Firenze, quindi sono le adesso come adesso faremo un po' fatica, insomma. E questa è stata una proposta abbastanza folle che ovviamente è stata bocciata da subito. E per la terza pagina della Domenica del Sole 24 Ore, la creazione dell'ora di tutti è un motivo per cui dal lavoro di Filippo Triola, saggista, l'orologio del potere, statua e misura del tempo nell'Italia contemporanea dal 1749 al 1922, e tutti questi aspetti di approfondimento. Nei suoi viaggi persino Casanova diceva: ma come? Qui il sole è impazzito! Sorge e tramonta ogni giorno con momenti diversi, ma com'è possibile? Qua il sole è impazzito totalmente. No, non è esattamente Casanova, sarei stato un grandissimo amatore, amante, ma per quanto riguarda certi aspetti che non sono solo di astronomia, qualche limite, insomma, ma è chiaramente comprensibile. E a proposito di Casanova e di un bolognese, il quiz per avere Venezia salva sarà attinente, come spesso capita nei magazine, anche a un'espressione tipicamente felsinia che riguarda il tempo. Tutto questo tra poco, dopo il brano molto limbo di Duke Ellington insieme a Coleman Hawkins. E quindi preparate, 333-180-9494, è arrivata anche Manuela Bassi con me in rassegna stampa, anzi sarò io insieme a lei, per meglio dire, lei sarà in conduzione principale per la rassegna stampa odierna, tutto ciò dalle 9:30, a tra poco. Facile, che prima della pubblicità vi annuncerò, ribadendo il numero 333-180-9494. Luigi può rispondere, ma è esentato dalla premiazione, oltre perché è già super campione, anche perché per lui, secondo me, è troppo facile. Ma non solo per lui, Luigi, non t'arrabbiare, però insomma, dai. Tempo può comporta poi anche anniversari. Quest'anno, 2024, saranno 150 anni. 150 anni fa a Parigi si cambia la storia dell'arte, nasce l'impressionismo e il 15 aprile 1874 gli antichi pittori devoti al mito e alla classicità espongono al salone ufficiale i moderni barbari eretici, queste fauve, queste belve. Saranno i padri della pittura moderna, uno in particolare, il mio amato Monet, derisi dall'Accademia, tanto più che sarà spregiativo. Loro hanno portato su tela le loro impressioni, non è che sia un granché, mentre invece l'impressionismo, nome di una tela dipinta da Monet, l'alba sul porto, al Museo d'Orsay si celebra l'anniversario, mentre Parigi si prepara all'orgoglio olimpico. Certo, saranno i padri, ecco, ho voltato pagina 3 della lettura di domenica 7 gennaio, questa alba sul porto meravigliosa. Alcune caratteristiche che non ho approfondito nella rubrica in mostra sull'impressionismo, di cui tanto vi ho parlato, guardando proprio questo lavoro di Monet. Il punto di fuga sarà per la prima volta spostato al di fuori della tela. Anche questa è un'innovazione molto particolare. L'aspetto di prospettiva e il punto di fuga non sarà più all'interno della tela, ma sarà spostato idealmente al di fuori. Poi il resto lo sappiamo, no? La pittura è en plein air, renderà più comoda anche con cavalletto i nuovi colori, le modalità di pittura, i colori scuri che saranno un po' messi da parte, i colori più vivi, l'idea di un soggetto che non sempre protagonista, e insomma sarà veramente un grande cambiamento nella storia dell'arte. 150 anni fa nasceva l'impressionismo a Parigi. Benny che dice: Filopanti sarà stato pure un talento, ma per colpa sua adesso sono in ritardo. Buona giornata, tanti auguri, buona giornata anche a te, Benny. A posto allora, non sarai più in ritardo, dai. Sul soffiato di Coleman Hawkins, che per me è sempre, ascolto un attimo, aspettate che me lo godo un pochettino assieme a voi, sentite questo suono soffiato. Buongiorno Sergio, lettore di magazine, ma invito veramente, leggete i magazine, cioè sono una compagnia per il weekend assolutamente, secondo me, molto molto bella. Ho letto anch'io quel numero e nemmeno io sapevo che il nostro concittadino Quirico Filopanti avesse ordinato le ore così come noi le abbiamo, ma anche prima non era male. I cicli di lavoro e produzione decideva il sole e il disorientamento di Casanova. Sì, Casanova, grandissimo conquistatore, ma era un po' confuso, ecco. Anche decidere la suddivisione delle ore con l'arrivo dei treni non era male. Esattamente, Benny. Se dico, allora, se avessero accettato la proposta di impostare il tempo in base ai treni, le giornate sarebbero di 5 ore, almeno in... Esattamente. Ben arrivata nella città ducale di Modena, e una buona mattinata a te, oltre che un buon anno, caro Benny. Ti aspetto domani per il Breakfast Club. Breakfast Club, momento del quiz. Allora. Il grande filosofo Raffaele Piana, nonché mio nonno, visto che mettiamo insieme, no? Libreria Acqua Alta con Simone Veil, Venezia Salva, una tragedia basata su un tradimento, bellissima, ambientata nel 1600, consigliatissima. Appena sono entrato in Libreria Acqua Alta in queste vacanze, ribadisco che per me è la più bella libreria in cui io sia mai stato, mi fermo sempre, e subito era esposto questo testo, pubblicazione a Delphi, ho detto questo lo prendo e lo metto subito a disposizione di ascoltatrici e ascoltatori. Cosa c'entra il nonno Piana? Allora, se chiedevo l'ora, dico un'ora a caso, non basatevi su questa perché sto assolutamente dicendo un'ora a caso, se chiedevo al nonno Piana: ehi, scusa nonno, ma che ore sono? E lui mi rispondeva in maniera così atipica: ien aglionge tri per e tri. Così intendeva. A voi 333-180-9494. Ien aglionge tri. Cosa intendeva con quel e tri? A tra poco con il Breakfast Club. A voi le risposte. Aglionge tri. Boh, che vuol dire? I look at it myself as the beginning, really, of an exploration. That's the reason we're exploring. You don't know what you'll run into on an exploration. What the sky looks like, what the stars look like. Do they still twinkle, or are they a steady light when you get outside the atmosphere? We'll be right back. John Sorman, che musicista, eccolo qui in assolo, ci accompagna in maniera lieta a questa, a questi ultimi minuti dei Magazine, prima puntata lunedì 8 gennaio 2024. Allora, in competizione e solo per competere, da risposta esatta, Lino agli Onge Tree. Allora, io mai contraddire il grande filosofo Raffaele Piana, detto Nino da Cadefabbri, e quindi io zitto accettavo questa risposta, andavo a guardare il mio orologino all'età di 5-6 anni e dicevo: ma come, non sono le 11:03, eppure il nonno ha detto agli Onge Tree. Erano le 11:45 agli Onge Tree, o a qualsiasi altra ora a Bologna, aggiungendo e tri vuol dire e tre quarti, erano le 11:45. Risposta esatta per Lino, ma è solo per competere. Luigi, ovviamente, come ho già detto in precedenza, era fuori concorso, e finalmente sono molto lieto di consegnare Venezia Salva, un'opera teatrale di Simone Weil, grandissima intellettuale, ambientata nel 1600, la storia di un tradimento portato a teatro in una narrazione romanzata per le edizioni Adelphi. Jarno da Calderara, sono ben contento di consegnare questo lavoro a te, che hai risposto in maniera esatta al 333-180-9494. Non sono ancora agli 8:03, però verso quell'ora abbiamo appuntamento con uno dei dischi dell'anno 2023. Siamo partiti con la presentazione di un disco 2024, seppur uscito a termine 2023, oggi una conferma che riporteremo, visto che da Alias del Manifesto è stato citato come una tra le uscite più importanti per jazz e contemporanea. Il lavoro anche da noi presentato, ma siamo ben contenti di ritrovare in diretta telefonica Federica Michisanti e il suo lavoro Afternoon. A tra poco. Been a long hard ride, like Bonnie and Clyde. No money and no ticket, and we can't go home, so we wait alone, just listening to the crickets. puntata dei magazine, la rassegna stampa culturale con le pagine di Alias, l'edizione del sabato del Manifesto. Ritrovo nelle classiche selezioni di fine anno un lavoro per una contrabbassista di Roma, Federica Michisanti, che in Jazz Live ma anche al Breakfast Club abbiamo già conosciuto. Io la seguo dalle sue prime pubblicazioni, grande talento nella contemporanea, nel sovrapporre la musica in maniera assolutamente originale. A proposito di tempi, abbiamo parlato tanto di tempo, ecco, in questo caso è veramente la sensazione che diverse epoche e tempi si sovrappongono in maniera, come ho detto, di ricerca e curiosa particolarità per i lavori di Federica. In questo caso un approfondimento ispirato al pomeriggio. Io al pomeriggio di solito dormo perché mi alzo molto presto la mattina, però ascoltare questo disco dove altri protagonisti oltre che Federica Michisanti danno colonna sonora a questo spicchio di giornata è indubbiamente un motivo di note quanto mai piacevoli e anche di curiosa attenzione. Buongiorno Federica. Buongiorno William, buongiorno a tutti. Grazie per questa levataccia, insomma dai, puoi recuperare nell'afternoon se vogliamo, anche se non so. Tra l'altro in questo disco di cui abbiamo parlato troviamo anche la presenza di Louis Clavy, oltre che Vincent Courtois, Michele Rabbia, il lavoro che ha una pubblicazione dal Parco della Musica, una label quanto mai prestigiosa. Io, come ho detto, seguo i tuoi lavori da tempo in questa, se vogliamo, sovrapposizione veramente piacevole di epoche e sensazioni. Come sei arrivata alla afternoon invece del 2023, Federica? Afternoon, ma non so, è frutto di, sai, io quando così nel pomeriggio, esatto, scrivo nel senso che anche quando non ho obiettivi ben precisi, insomma, scrivo musica, ecco, come magari disegno, è una mia abitudine, ecco. E quindi Afternoons è una serie di composizioni che nel tempo, insomma, dopo il penultimo disco sono uscite fuori, insomma, sai, c'è l'esigenza di mettere ogni tanto, no, dei punti fissi e di mettere così un punto fisso di quello che uno ha fatto nell'ultimo periodo. E quindi così mi sono rivolta di nuovo all'etichetta Parco della Musica Records, che ha accolto, insomma, questo mio progetto e niente, abbiamo registrato. Certo. E poi sì, no, per quanto riguarda la collaborazione con Luis e gli altri, Luis, diciamo, con lui collaboro da qualche anno grazie a una striscia di Terra Seconda e Paolo Damiani, perché insomma è stato Paolo il tramite con Luis, avendo vinto il premio TIA nel 2019 avevo la possibilità di scegliere un ospite francese. E io ho pensato a Luis perché, insomma, lo seguo da tanti anni, è un artista che ammiro molto. E poi da lì, insomma, mi è venuta in mente la formazione con il violoncello, ho pensato a Van Sant perché è un altro artista pazzesco e la figura che più, secondo me, era adatta a questo tipo di formazione, alla batteria, non batteria, diciamo così, era Michele, perché veramente, ecco, sì, infatti si nota nel vostro lavoro questo interplay quanto mai forbito, ed è una scrittura che insieme agli altri lavori che hai portato è un percorso veramente di crescita, e hai portato anche motivo di ricerca hai innescato per meglio dire anche un lavoro in futuro che, così ho rubato qualche tua parola, vuoi portare in Quartetto d'Archi, dico bene, correggimi se mi sbaglio. Sì, mi piacerebbe, perché sì, tra le altre cose che ho scritto ci sono dei brani per un Quartetto d'Archi che mi aveva commissionato l'associazione 433 di Matteo Gabuzzi di Mantova, e facemmo una residenza nel 2022 o 23, non mi ricordo. Vabbè, insomma, hai perso il senso del tempo, sì, a forza, esatto, di sovrapporre le cose. No, è troppo presto, no, scherzo. No, no. Comunque, sì, quindi diciamo che ci sono già delle composizioni scritte che mi piacerebbe registrare, ecco, appena c'è l'occasione. In quel quartetto c'è la bravissima Eloisa Manera al violino e sì, i bravissimi Maria Vicentini alla viola e Salvatore Maggiore al violoncello, che è un grande contrabbassista ma anche violoncellista, quindi in questo caso nella veste di violoncellista, e quindi speriamo di poter registrare presto. Sì, e io ti lascio ai tuoi studi ovviamente, aspettando anche il prossimo lavoro, così. Sì, speriamo. Lo per me lo farei subito, lo registrerei subito, però sai, poi ci sono i tempi, bisogna. Ecco, certo, certo. Aspettare i tempi. Noi ti aspettiamo a Bologna o al Torrione, insomma, per ritrovarci, speriamo. E per un concerto. Intanto il tuo lavoro After Dunes ha ricevuto diversi riconoscimenti, giustamente, fra l'altro, per questo 2023. E già questa è una bella soddisfazione, Federica. Sì, sì, assolutamente. Infatti sono sempre contenta quando tu, ma è un privilegio avere dei riconoscimenti, no? Perché io scrivo, compongo il registro perché mi piace, non potrei fare altro, insomma, poi quando piace anche agli altri, disegni, anche hai detto. E disegno, sì, esatto. I tratti, immagino, all'interno del tuo ultimo lavoro, che vedi vedo dei tratti in giallo all'interno della tua fotografia, magari opera tua. E detto questo, io ti ringrazio tantissimo per questa conversazione, aspetto anche progetti futuri in disco per poterci ritrovare al Breakfast Club o al Jazz Live, sempre di Radio Città Fujiko. Intanto propongo un tuo brano Not all'interno di Afternoons. Ok, grazie Federica. Grazie mille. Prendi un grazie caffè te, adesso che ti ho sì, svegliato. Sì, adesso lo... Va bene. Ancora lo devo prendere, adesso lo faccio. Pensa un po'. Mi sento in colpa. Tanti ma auguri, no, ma nuovamente. Grazie. Grazie mille. Ciao. Ciao William. Ciao. Ciao. Ciao. Azzeccato non solo per il momento ma anche per la sovrapposizione, come ho detto più volte ascoltando questo disco, dalla varietà nella proposta musicale. Poi Luis Clavis al clarinetto è veramente un musicista eccezionale che va a risaltare le doti del violoncellista Vincent Courtois. Federica Michisanti al contrabbasso, conclude all'elettronica, alle percussioni, alla batteria Michele Rabbia, questo quartetto per il lavoro, come ho detto, con collegamenti assolutamente concreti di strato fra un'epoca e l'altra e le emozioni diverse che vengono scaturite poi dal lavoro di Federica Michisanti, che abbiamo tirato giù dal letto in presentazione per uno dei dischi dell'anno del 2023. Siamo partiti con Enrico Casarotto per il 2024, 2023 con il lavoro in quartetto che abbiamo appena riproposto, Afternoons, e siamo arrivati al termine del nostro Breakfast Club con i Magazine. Domani avremo il Move to Groove e ringrazio anche Jarno da Calderara per gli auguri di buon anno che ricambio. Chiede il libro è alla Ubic? Non so, potrebbe essere, ma ci sentiamo perché la consegna sarà imminente. Quindi caro Jarno, finalmente vincitore, buona lettura! pubblicità e di Peo liberi dentro, terminata la nostra prima colazione in diretta, sperando di avervi tenuto buona compagnia. Vi do appuntamento a domani puntualissimi alle ore 7. Domani il Move to Groove sarà incentrato sulla disciplina, per cui avremo basket e filosofia assieme. Sono rimasto in studio diretta, non lo so ancora se è arrivata Irma, questo è un messaggio interno con Sergio Fanti, non ho ancora fatto gli auguri di buon 2024 a Irma, per cui insomma sarà modo di rimediare al più presto, però caro Sergio non so se è già in redazione. Grazie per l'attenzione, un caloroso abbraccio dal vostro William Piana, un buon proseguimento all'ascolto dei 103.1. Ciao a tutte, ciao a tutti, a domani, super mattiniere e super mattinieri, vi voglio puntuali, ore 7, colazione assieme, Breakfast Club, buon ascolto e buon lunedì.